headlights are on. Scoccono ora le ore 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E per quanto riguarda il web, www.ondarossa.info. Prova tecnica di trasmissione sino alle 22.30 e poi ci sarà 25 o'clock. Ricordiamo la nostra campagna di crowdfunding, il nostro radio abbonamento di 30 euro annuali per questa realtà che da lontano 1977 è completamente autogestita e priva di qualsivoglia forma di pubblicità, quindi le iniziative in giro per centri sociali e questo radio abbonamento diventano fondamentali per la nostra vita, per questo spazio di libertà politica, etica e anche culturale. Il banner specifico dà le indicazioni di adesione nei vari modi. Vado a salutare Gianluca Becuzzi, ex Limbo, Kinetics e da molti anni ormai con la sua attività solista. E presto ci ascolteremo il suo ultimo album. Un saluto a Venusia Stramonio, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico. Cecilia Miradoli di Pindar, Tiziano Farinacci di Pigreco, Maya in Sardegna insieme a Nicola Locci, Anna qui a Roma. A Latina c'è Massimo che ci sta ascoltando. All'Aquila Valentina che salutiamo, un saluto anche a Antonio Zoviet di Omicidio, grossa realtà industrial da Firenze. Saluto Enrico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project, Marco Milanesio di Disordine, Francesco Cornello in quel di Bergamo. Alberto Cripper di MDMA, Alessandra Monterotondo, Federica Garenna di Les Longs Adieux, interessantissimo progetto tra Dark Wave e Synth Pop che abbiamo cominciato ad apprezzare lunedì scorso con Frank Marelli, Valerio Michetti e Alessandra Trinity Bersiani, quindi la salutiamo. Un abbraccio va anche a Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo. Saluto anche Like Wake e Stefano Di Serio ed è con lui che andiamo ad iniziare questa sera, approfittando della sua ultimissima e ottima uscita proprio nel 2023. Da parecchi album Stefano predilige la suite, diciamo, di circa un'oretta, in genere questa la durata delle sue lunghissime tracce, che vanno da una forma di neosinfonico a elementi di prog e naturalmente inserti industrial. Sono questi i tre elementi principali dell'arte di Like Wake. Questo ultimo album si chiama I Live in Fear, I Burn in Hate, Symphonic Noise. E appunto Symphonic Noise sono proprio gli intendimenti musicali di Like Wake. Essendo una traccia molto lunga, abbiamo deciso di dividerla in quattro sezioni e quindi questa sera cominciamo ad ascoltarci una decina di minuti della fase iniziale. Thank you. Yeah. chiama I Live in Fear ai Barney Nate Symphonic Noise, una lunga traccia di 1 ora e 5 minuti, e abbiamo estratto i primi 13 minuti. Le altre sezioni ce le ascolteremo nelle prossime settimane. Forte potere evocativo, contemplativo, fraseggi anche neoclassici, ma retrogusto gotico e elementi prog, elementi che arricchiscono questa opera di Stefano Di Serio, che vado a salutare. Ricordiamo una lunghissima carriera iniziata nella metà degli anni Ottanta con sonorità ben diverse, molto più affini all'industrial noise. Il tutto fino al 1989, poi una pausa di circa 20 anni. Per ricominciare nel 2011 e stampare numerosi lavori fino al giorno d'oggi. Il tutto esce per la Septic Noise, etichetta proprio dello Stefano Di Serio, quindi una sorta di autoproduzione. Dopo questi abissi siderali si va avanti e andiamo da Alfa Privativa della nostra Venusia Zuzzetta Stramonio. Sono parecchie le tracce ideate negli ultimi tempi per quanto riguarda Alfa Privativa, anche qui siamo in un certo senso nel campo delle evanescenze elettroniche, dell'ambient, però anche lui, al pari di Lucky Wake, di tanto in tanto immette elementi di rumorismo. Se per Lucky Wake si parlava di una traccia unica di oltre un'ora, qui invece sono delle brevissime tracce, quindi questa sera ce ne ascoltiamo ben 4, ossia Kyrie Polemos degli Imeni in Vibranium delle bambole gonfiabili, Mioma uterino sottosieroso, Plutonio 238 nello sperma e Scabbia mobili. fremiti avanguardistici, flussi vibrazionali ideati da Alfa Privativa con Venusia Zuzzetta Stramonio che è dietro a questo progetto. La sua fase creativa più recente, al contrario di Cupio Dissolvi, che presto andremo a conoscere meglio, che è già datato. Interessanti le trovate, i campionamenti, le incursioni nella sperimentazione più visionaria. Intanto vado a salutare Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Risaluto a Noise Cluster, visti qui a Roma recentemente in una ottima performance live. Eccolo qua anche Nicola Locci di Stigmate Hexagonal. La Sardegna creativa, eccolo lui. Un grosso saluto a Nicola, che peraltro ha anche collaborato proprio con Noise Cluster in passato. Come Noise Cluster hanno anche collaborato con Like Awake. In un certo senso è anche bello pensare che artisti si sono conosciuti tramite questo spazio e poi hanno collaborato insieme. Intanto saluto Sisto Pallombella, lo vado a risalutare, come saluto a Giuseppe Verticchio di NIM. Intanto gli ultimi 10 minuti li abbiamo dedicati alla compilation ideata da Raffaele Pezzella riguardante il Sudafrica, esattamente South African Music Survey, Anthology of Contemporary Music from South Africa. Due momenti diversi, uno cerebrale, appartenente a Heller Oran con Differential Ensemble, questo più a suo modo tribale, tradendo le origini, appunto, e il concetto che stiamo affrontando, appunto, il Sudafrica, ad opera di Aragorn 23 con questo Inyanga Shuffle. Tornando un attimino a Alfa Privativa, chi volesse approfondire un po' la materia che abbiamo trattato qualche minuto fa, c'è un profilo SoundCloud. Saluto Luca Giuoco, che giustamente cita il primitivismo cibernetico, è una ottima definizione che rende perfettamente l'idea degli intendimenti e le fusioni tra realtà etniche, ma anche lo sguardo rivolto verso il futuro riguardante molti degli artisti di questa antologia creata appunto da Raffaele Pezzella. Luca Giuoco, ricordiamo, come collettivo inconscio numero 1, che è uscito attraverso la Dissipazio di Nicola Quiriconi, attività e realtà molto importante qui in Italia. Saluto anche Alicia Sardina qui a Roma, fedelissima ascoltatrice. si lascia il Sudafrica, si torna in Europa, andiamo da Boyd Rice e questa volta con la ragione sociale non Children of the Black Sun, si torna a qualcosa di decisamente visionario, oscuro e criptico. Un lavoro del 2002 che uscì per la Mute, una realtà abbastanza ibrida, ma fondamentalmente anche lei una realtà indipendente. Ci ascoltiamo Serpent of the Heavens e Serpent of the Abyss. le ossessioni, gli intimi spasmi di Boyd the Rice, Children of the Black Sun, album del 2002, intanto mi devo correggere perché ho detto è una involontaria castroneria, Boyd the Rice è americano, non europeo, perché in un certo senso era già proiettato avanti con l'artista che sarebbe venuto e sta venendo dopo Boyd the Rice, Noun. E quindi ringrazio Flavio Derbecante che mi ha prontamente corretto, dimostrando anche di essere peraltro attento alle proposte. Ed è anche bello, sono belle queste collaborazioni a distanza. Per esempio Luca Giuoco dice che questo è un abisso claustrofobico ed è una affermazione che mi sento di sposare in pieno. Quindi vi ringrazio per la competenza e l'attenzione rispetto alla musica che stiamo mandando, che credo sia gradito ai più. Benvenuti anche a Wurnus Island, grossa e storica realtà industrial piemontese. Un saluto a Tiziana e Massimo, saluto Dario Righi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name. Bravo Ernesto, estraniante è un altro ottimo aggettivo per descrivere l'arte di Non, collaboratore anche in passato di Douglas Pearce. Molti anni dunque per Non, oltre che per Boyd the Rice, sono tanti anni che calcano le scene. Adesso sì, torna in Europa con Nordvarger, grosso artista con una miriade di progetti a suo appannaggio. Con il suo vero nome ha stampato questo Resignation diviso in 3 volumi, 2 risalenti al 2009-2010 e l'ultimo invece con del nuovo materiale proprio quest'anno. Da Resignation Number 2. Ci ascoltiamo What Was Written Will Come to Pass e Among the Mountains and the Rivers Flowing.